voce di rimpettaia del quinto piano. Non v'è una notte che non sogni in Napoli, e son vent'anni che ne sto lontano. Al mio paese nevica il campanile della chiesa bianco, tutta la legna è diventata cenere, io sempre freddo e sono triste e stanco. Amore mio, non ti ricordi che nel dirmi addio mi mettesti all'occhiello una panzer, poi mi dicesti con la voce tremula, non ti scordar di me. Bei tempi di baldoria, dolce felicità fatta di niente, rindisi con bicchieri colmi d'acqua al nostro amore povero e innocente. Negli occhi tuoi passavano una speranza, un sogno, una carezza, avevi un nome che non si dimentica, un nome lungo e breve, giovinezza. Il mio piccino in un mio vecchio libro di latino ha trovato, indovino, una pensée, perché negli occhi mi tremò una lacrima. Chissà, chissà perché.